Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Non so come mi venne estro di cominciare a chiacchierare con questo signore. Si parlava del più del meno, si commentava ciò che passava fuori del finestrino, si ragionava di banalità quotidiane, quando a un certo punto capì che nella sua storia c'era qualcosa che lui voleva raccontarmi, qualcosa che mai aveva raccontato probabilmente, qualcosa che aveva a che fare con la sua passione per la fotografia. Sì, perché scattava in maniera incessante foto nel suo smartphone al di fuori del finestrino e cominciò a dirgli: le piace fotografare, fotografa tutto. E allora capì il mistero che nascondeva. Mi interessa capire com'è che ha avuto un'esperienza con dei fantasmi lei. Beh sì, in effetti l'ho avuta nel 2002, diciamo, in una vacanza in un'isola di Pantelleria, che eravamo, diciamo, io con la mia famiglia, due figli, e diciamo che ho trovato, cioè ero in un sito, diciamo, in un posto dove c'era una tipo un vecchio cimitero, una necropoli del 1800 avanti Cristo era, quindi diciamo non era un cimitero, insomma erano dei ruderi, delle pietre laviche messe a cumuli, dove una volta però c'erano i morti. E una volta c'erano i morti, lì c'era un'escritta, diciamo, l'hanno messa scritta, c'è cioè un cimitero risalente al 1800 avanti Cristo, dove venivano, c'era una cupolona centrale fatta con pietra lavica e dove in questa centrale venivano esposti i morti, insomma i defunti. Vabbè. E nulla, però tutto abbandonato. E cioè poi tutto, morti ormai era parecchio tempo che non c'erano più. Parecchio tempo, sì, e c'erano figli d'India, tutto in mezzo ai figli d'India. Era una zona, praticamente è capitata questa cosa singolare, che in effetti io sono anche scettico, diciamo, su queste cose, ero via scettico. Praticamente filmando con la telecamera, che praticamente ero solo io lì in quella zona, perché mia moglie e i miei figli non c'erano lì, ero solo io che stavo riprendendo, diciamo, la zona, così. Cioè faceva un filmino, il tipico filmino delle vacanze. Tipo filmino delle vacanze, praticamente. E è successo che lì per lì non ho sentito niente, cioè non ho percepito niente. Il problema, cioè, il fatto è dopo, diciamo, quando sono tornato a casa, che ci siamo rivisti io e mia moglie i filmati dell'estate, c'è, diciamo, chiaramente, proprio molto chiara la voce di una donna che mi parla. Ha solo l'audio, solo l'audio di una donna. L'audio di una donna che c'è praticamente come se ce l'avessi proprio davanti al microfono. E come, in che lingua parlava? Parlava, ecco, questo lo parlava in una specie di latino, o simile latino, diciamo. Io poi dopo l'ho fatta sentire solo a una persona, a un parroco lì della mia zona, che sa il latino, e mi ha spiegato un po', grosso modo, quello che avrebbe detto questa donna, insomma. E che diceva? Che diceva? Diceva che praticamente che stavo calpestando un luogo sacro e di portare rispetto al luogo, ecco. Così. Cioè non doveva pestare le tombe dei morti antichi. Premetto che io lì appunto ho anche espletato un bisogno fisiologico sulla zona. Ma diciamo. quella grossa o quella piccola? quella piccola, quella vabbè, piccola. Detto, non è una cosa grave. No, no, non era grave, però sai, mi sono detto io, ma forse mancava di rispetto al luogo, che poi in effetti a vedere così non è che in un classico cimitero come si immagina noi, cioè ma allora scusi, si è arrabbiata l'anima inquieta, aveva fatto la pipì sulla sua tomba, grazie. Io diciamo, io su queste cose non ci ho mai creduto tanto, però io non me lo so spiegare, ecco. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Ma è una donna, giovane donna. Giovane donna. È una giovane donna che mi parla in questa lingua, tipo latino, so, perché poi lì mi hanno detto che in quella zona della Pantelleria c'è stato il passaggio di tanti, diciamo, popoli, insomma, come. Ma era arrabbiata, come voce era arrabbiata. No, tranquilla. No, non era arrabbiata, non era arrabbiata. Era tranquilla, mi parlava come un po' di una voce un po' lunga, cioè una voce non normale, insomma una voce un pochino più, tipica, tenebrosa. Tipica voce all'oltretomba, così parlo. Però così. Diciamo io non lo dicendo, io lo ridico dopo tutto questo tempo, te lo ridico a te così, ma non l'ho più detto, cioè non ho detto mai a nessuno, che poi mi pigliano magari anche in giro. Ma ce l'ha ancora il file con la voce, lo tiene? Ce l'ho, diciamo io ce l'avevo, era un video 8, sai, una cassetta video 8, e poi l'ho tutte passate sul CD, l'ho passato sul CD che poi si sciupano col tempo, se no. Quindi capito? Lei allora, ha il CD con questa registrazione? Ho il CD che non ho più riascoltato, però da quando l'ho duplicato poi non ho più riascoltato. Ma lei ce l'ha, perché lei potrebbe fare un MP3 e mandarmelo magari. È più tornato in quel posto? No, non sono più tornato, c'è andato un mio amico, gli ho detto prova a passare, gli ho detto la zona. Fai un po' di riprese, guarda un po' se ti viene fuori qualcosa, però non è venuto fuori. Facendo prima la pipì, però, se no non funziona. Quello gliel'avevo detto. Ah, ha detto. Fai pipì sulle rovine e poi vedi che succede. Ma è questa sarebbe. Senta, ma il prete le ha dato altri consigli, oltre a tradurglielo? Ha detto non. No, mi ha detto che non so, queste forme di insomma dell'aldilà, insomma, di un'altra dimensione ci può essere, insomma. Quindi lui per lui era possibile che ci fosse, sì. Penso di sì, sono queste cose captate dal microfono della telecamera, probabilmente era più, cioè l'orecchio mio non ha sentito niente, ecco, io non ho sentito niente, l'ha sentita questa telecamera e io. Ma l'ha raccontato alla moglie e ai figli, gli ha detta questa cosa o l'ha tenuto nascosto? Sì, no, l'abbiamo vista a casa poi noi, difatti lì per lì ho detto, Dio buono, ma che è questa, siamo tornati indietro e si sente questa cosa, capito? Quindi è una cosa strana da potere, non si spiega, non vabbè, la lei guarda, la prossima volta che o ci incontriamo in treno o me la manda via rete e la faccio ascoltare un esperto, se ci manda la registrazione della voce misteriosa della sua protesta, le diciamo nel particolare esattamente cosa ha detto, magari troviamo un esperto di latino arcaico che ne sa anche di più, del prete magari, che ne sa. Sì, io poi ho detto, non ho avuto modo di farla sentire a altri, ho detto poi l'ho detto a uno o due, dice sì, ma vai, dice che tu vuoi, ma che sarà il vento, dice sarà stato, insomma. Vabbè, lei rintraccia il file, aspetterò con apprezzione il suo file e vedremo poi la voce misteriosa cosa avrà veramente detto. Alla prossima, grazie. Bene, grazie, buon ciao, ciao. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Raggiante e metafisica, come la tappezzeria usata per arredare la cameretta di Barbie, la vedo là, comodamente seduta nella sua poltrona, avvolta nei suoi panni policromi, Lady Pink. Ma ricordate Lady Pink? La signora va in giro vestita di rosa. Rosa le scarpe, rosa le calze, rosa la gonna, rosa la maglia, rosa la camicia, rosa il cappello, rosa la veletta, rosa il trucco sulle sopracciglia, rosa le palpebre, rosa rossetto, rosa le guance, rosa i guanti. Lady Pink è davanti a me, particolarmente contenta, felice, raggiante. Sprizza una solarità color rosa confetto, chissà perché. Esiste sono, ci sono. Io stavolta, ti giuro, mi sono messa di impegno. Ho iniziato questa relazione, sono andata avanti, cioè proprio ho detto sì, ce la devo fare questa volta, perché non è possibile che sbagli regolarmente. Ebbene sì, anche questa volta ho chiuso questa relazione, che è durata diciamo 7 mesi. Credo di aver sfondato la barriera del suono. Hai superato ogni tuo limite, diciamo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Diciamo che ha aiutato il fatto che lui fosse vivesse a Zurigo, per cui insomma. Ogni quanto vedevate? Una volta al mese? 7 volte? No, sì, più o meno una volta al mese. Vabbè, 7 volte, sei vista con un uomo 7 volte, questa. No, un po' di meno. Meno 6 volte, 5? Sì. Vabbè, sì. Praticamente sono 5 sveltine in una relazione banale, dai, non è stata una relazione. Ma guarda, ti dico. Sveltine neanche più di tanto, perché insomma c'erano tutti i crismi. Ma lui è svizzero? Sì, più o meno, mezzo italiano, mezzo svizzero. Quindi è un italiano è che... È un ibrido, è un extracomunitario. Ma cosa ti faceva pensare che fosse l'uomo della tua vita, perché l'hai visto 6 volte? Il feeling mentale sostanzialmente, e anche il feeling sessuale. Vabbè, questo tutte le donne lo dicono, ma c'era un grande rapporto fra noi fisico, lo dicono sempre, per farsi belle, poi alla fine manca. Ma non è vero, cioè, io ho avuto delle sole che, ragazzi, dici oddio. Vabbè, se tu lo paragoni a un eiaculatore precoce, a un microfallo, è chiaro, sarà stata una persona normale, dai. Una persona normale, certo, assolutamente normale. Né più né meno come tanti altri. Però sappiate, uomini, che noi fingiamo. No, ci tengo a dirlo. No, davvero? Sì, perché alcuni, chi l'avrebbe mai detto? Alcuni, no? Anzi, mi è capitato a cena con degli amici. Fa, a me non è mai capitato. Io ovviamente mi sono permessa di ridergli spudoratamente in faccia. Ho detto, no, ma tu sei veramente fuori. Guarda che hanno finto tutte con te, come con gli altri. Ti dirò una cosa che ti farà dolore. Anche noi uomini fingiamo. Sì, sì. Solo che noi fingiamo i sentimenti, voi fingete, esatto. L'estasi, pecoreccia, questo. Voi fingete, ma neanche, io non credo che neanche fingiate, credo che vi calate nel momento e lo vivete, e vi fate questo film nel momento, però poi ritornate ad essere quello che siete, cioè degli inaffettivi. Vabbè, non entriamo mai nei meandri complicati della mente femminile. Per capire cosa vogliono da noi le donne, cerchiamo per quanto possibile di assecondare quello che immaginiamo sia il loro desiderio, che ne so. Ma mi ami? Sì, certo, ti amo. Ma quanto mi ami? Ma tantissimo. Ma sei sicuro di amarmi? Certamente. Detto questo, che dobbiamo dirvi? Non lo so. Detto questo, dovete presentarvi a casa delle vostre compagne, fidanzate, quantomeno relazioni, almeno con un mazzo di fiori. Io non dico di andarlo a comprare. Sì, ma le mie coetanee ormai i genitori ce l'hanno tutti al cimitero, dai, non, a me non riguarda più questa roba, quindi forse sì, magari. Ma non è vero. Ho 62 anni, dovevo andare a cercare l'ospizio i genitori dei miei coetanei, dai, è un discorso che riguarderà forse i giovani, non lo so. Ma riguarda tutti, io credo che l'attenzione e il pensare ad una persona riguarda tutto, riguarda il rapporto tra amici, Ma sì, perché uno deve andare a portare i fiori ai genitori se pensa a una persona? Questo non l'ho capito il passaggio. No, io dicevo che bisogna pensare alle persone e omaggiarle, fare un regalo carino, un pensiero. Il pensiero che conta, è vero, è il pensiero che conta, non è poi alla fine. Ah, questo è il punto, cioè un uomo ti ama in ragione in cui spende su di te, investe su di te. Non tanto spende quanto si investe, ma in termini di energia mentale. Cioè, vabbè, quella tanta, però come la quantifichi? Nel gesto. Beh, lo svizzero quanto investiva in energia mentale in te? Allora, in energia mentale tantissimo, in energia reale, materiale, un gran bel ciuffolo di niente. Per cui è lì che abbiamo avuto un attimo di frizione, nel senso che va bene una volta, va bene due, alla terza che mi arrivi a casa mia senza un mazzo di fiori cioè non hai avuto tempo, fermati in autostrada. Ma fammi capire, aveva il braccino corto o proprio era sentimentalmente arido, quindi non ti faceva un pensiero? Perché è diversa la cosa, eh? Io non lo so, non lo so. Non era di bacino corto perché comunque per se stesso spendeva e spandeva, e ci sta. Ma per quanto mi riguarda non è mai arrivato con un Ticadò, che questo vuol dire, ripeto, non hai avuto tempo di prendere qualcosa in Svizzera, ti fermi in autostrada, mi prendi un Icaro piuttosto che un Camogli, piuttosto che un filo interdentale, ma arrivi a casa mia con un pensiero, lo fanno i miei amici. Tanto più che lo invitavi a cena, almeno una bottiglia, ti è. Appunto! Niente, nemmeno quello, zero. Si informano i signori passeggeri che fra qualche minuto passerà in carrozza il personale del treno per offrirvi un piccolo spuntino. Ci arrivava, si metteva in pedalini, mangiava, beveva, dormiva, si pasceva dalle tue carni frementi e poi se ne andava. E poi se ne andava. E poi non è più tornato, però. E avrà trovato qualcun'altro. Ma io glielo auguro. Più vicino. Ma glielo auguro. Ma quanta strada faceva per venirti a trovare? Vediamo un po', a vedere un pochino. Quante ore ci volevano di macchina? 4 ore. Beh, era un viaggettino comunque. Sì, però, vabbè. All'autogrill però. Si fermava veramente, all'autogrill c'è di tutto. Ma appunto, veramente. Anche i classici coglioni di mulo al pepe, quelle cose lì che vendono all'autogrill, poteva portarteli. Assolutamente, poteva portare qualsiasi cosa. Dall'atlante geografico piuttosto che dal filo interdentale al carica batteria per auto, c'è di tutto. No, ma ci sono anche i cioccolatini, mosceriba, ciperugina, c'è tante cose romantiche. Esatto. Niente, mai niente, nulla. Niente, mai. Nemmeno un grattavinci, niente. Ma neanche la rosteria di Capodanno, capito? Ma a cena Capodanno? Fuori ti ha mai portato? Cioè in un ristorante o qualcosa di simile siete mai andati? Sì, senz'altro. E chi pagava? Vabbè, pagava lui, ci mancherebbe. No, vabbè, vedi, però va ridimensionato. Il vero pitocco fa pagare alla romana le donne. No? No, vabbè, capisci? Ci domandiamo anche chi pagava. Vuol dire che comunque è una malattia sociale. Cioè, ormai la gente pensa solo ad appagare se stessa e non alla condivisione. Ed è questo il punto fondamentale. Sì, però guarda, posso dire una cosa? A me dà fastidio. L'uomo... col braccino corto mi dà molto fastidio che non pensa, però molte volte siamo disabituati a avere questi pensieri, perché il fatto di considerarvi in maniera più disinibita, più sportiva, più paritaria, siccome non ce ne importa nulla del regalino, onestamente, anzi io ho la pelle d'oca quando qualcuno mi fa un regalo, mi dà proprio fastidio, non voglio regali, non so perché, non mi piace, poi devi sempre ridargli in un altro, poi dire grazie, poi perdere tempo a cercare un regalo, è una cosa faticosissima. Ci ha tolto questa cosa qui che una volta faceva parte dei codici di galanteria che sono antichi, passati, almeno questo penso. Non è una colpa individuale, è un decadere collettivo nel rapporto fra uomo e donna, penso, non lo so. Non lo so, io fortunatamente ho una serie di relazioni, di amici con i quali, anche se non c'è un'occasione, anche se non c'è un motivo particolare per cui fare un dono, capita spesso e volentieri di vedere, che ne so, un ciondolo piuttosto che una bottiglia, piuttosto che ho raccolto le albicocche in giardino, le porto ai miei amici e così loro fanno. Ma questo amare, no? Il dedicarsi alle altre persone, che poi siano quelle con cui vai a letto piuttosto che i tuoi amici, comunque è bello donare. È sì, ho capito, chiacchiere, donare. Ma lui faceva 4 ore di macchina per venire da te, cioè era abbastanza un sacrificio, nel senso, un po' si impegnava, pigliava, partiva, 4 ore di macchina non sono poche, no? E già questo non bastava, si faceva un bel viaggetto per venirti a trovare, no? C'è da dire che in mezzo ci metteva una puntatina a fare le sue faccende a Torino. Per cui diciamo che... Quindi doveva passare per forza. Per forza, no? Sono sulla... Quindi eri sul suo tragitto, diceva, vabbè, come ci fermiamo a far benzina, ci fermiamo un attimo da Lady Pink. Certo, però sai, Lady Pink dà anche il blu, cioè nel senso, ciao, ti saluto. Ma tu l'hai mollato, ma non c'è una ragione proprio per mollarlo, scusa, non c'è una ragione... Certo. E come gli hai detto? Ti lascio perché non mi fai regalini? No, che... In realtà gli ho detto che non mi andava più di investire tempo ed energie, perché secondo me non ne valeva la pena. Ma tu che volevi? Che ti sposasse? Venisse un giorno con l'anello? No! E che devo fare? No, io voglio capire, non capisco mai questa cosa. Che deve fare un uomo per farvi contenta? darci le giuste attenzioni. Venirti a trovare non è una giusta attenzione. Vabbè, ma si va a trovare anche la zia, che vuol dire? Cioè, ma un conto è andare a trovare una persona con un'intenzione, un conto è andare a trovare una persona che è di, così. Tanto scusa, Lady Pink, ma tu sei una donna intelligente. Ma che ti cambiava se questo dal fioraio sotto casa, dal Bangladesh che c'ha il negozio di arance, mandarini, mele, pere, birre e via dicendo, comprava un mazzettino di peperoncini e ti riportava? Cosa ti cambiava? Beh, mi cambiava tanto, perché vuol dire che ci aveva messo l'impegno, ci aveva messo il pensiero, capito? E quindi è questo la cosa, il certo, fatto veramente, di non aver quanto basta poco per turlupinarvi. Cioè, se lui avesse saputo prima tu ci avresti esigenza e si fosse posto il problema, ma cosa gli costava? Non gli costava nulla. Se non l'ha fatto è che pensava che tu eri al di sopra di queste cose. Credimi, un uomo si farebbe camminare sulla schiena se vuole tenersi una donna. Non è quello il problema, il mazzetto di fiori. Te ne compri 10, li tieni surgelati nel freezer e lo tiri fuori ogni volta se serve. Non è indicativo di un'attenzione, questo lo dirti, è una formalità. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Dillo prima, mi piace il regalino, non venire mai a mani vuote. Quello viene sempre col mazzo di fiori, che gli cambia? Ma non te lo devo dire io, a 45 anni non te lo devo dire io, vuol dire che le donne che hai avuto prima non hanno fatto un buon lavoro, vuol dire che tua mamma non ti ha insegnato. Ma vuol dire che non gliene fregava niente donne prima nel mazzetto di fiori, guardavano all'essenza, gli bastava la persona, lo so, boh. No, io credo che comunque una donna faccia, nel senso che comunque gli uomini sono il risultato delle donne che hanno avuto, evidentemente le donne che ha avuto. Questo è vero, questo dice una cosa molto saggia, questo è vero. Grazie. Però è vero, anche secondo me, cioè sono il risultato della madre prima e poi delle donne che ha avuto. Se le donne che ha avuto, nessuna di queste donne, immagino che in 45 anni qualche donna ha avuto, se nessuno gli ha detto guarda che comunque quando ti presenti a casa di una persona, a prescindere, è buona regola della buona educazione presentarsi non a mani lunghe ma a bussare con i piedi, evidentemente se nessuno gliel'ha detto mi preoccupo per queste donne, perché evidentemente non hanno in sé l'indole del donare, che poi è femminile, no? Il dare alla vita, dai anche, no? Quindi doni anche. Se sì, in effetti donne... andare a cena a casa di una persona e non portare nulla è brutto. È cafone. Per tutti ti diranno no, non serve niente, ma qualcosina devi sempre portare, certo. Minimo un dolcino, una bottiglina, certo. Un fiorellino, qualunque cosa, un soffrittino, basta che porti qualcosa, capito? Esatto, vedi che viene al mio discorso. No, questo, ma questo sì, ho capito. Adesso, quindi adesso... a prescindere dalla trombata o meno, a prescindere. Ma trombata esatto. Lady Pink, ma anche siamo più bambini, ormai appunto. È il default quella, non è indicativa di nulla. Esatto. Però è. Non credo che venisse dalla Svizzera dove stai te in 4 ore solo per farsi una trombata. Appunto. Perché in Svizzera ci sono delle case di piacere ottime, sarà per quello. Non credo che a meno che fosse così sprovvisto, se uno fa tutta questa strada, viene perché ci sei te, non per farsi una trombata, dai. No. Lo so. E quindi era attratto da te in qualche maniera, qualcosa eri per lui, no? Non lo metto in dubbio, ma anche lui era qualcosa per me. Ma non potevi dirglielo esplicitamente la terza volta, caro, per piacere, non ti presentare più a mani vuote che io ci rimango male, fammi questa gentilezza. Io non ce la posso fare a dire, nel momento in cui tu dici una cosa del genere, che è basilare della buona educazione, della formazione di una persona, va da sé che cade tutto. Cioè, io credo che le persone ci debbano arrivare. Se io vengo a casa tua a cena, piuttosto tu vieni a casa mia a cena, che sei un amico, che sei un amante, che sei qualcuno di importante nella mia vita, comunque, ripeto, il sacchetto di insalata già lavata tu lo devi portare, ma non perché io ho bisogno di insalata, perché è il gesto, e se mi manca il gesto vuol dire che mi manca il pensiero che sta dietro al gesto. Ma non è che tu hai impostato il rapporto in maniera così informale, perché voi donne fate così, cameratesca, amichevole, dai forza, che lui no, non è il tipo, no. No, anche perché io i regali a lui li facevo. E cosa gli hai regalato? Fammi un esempio per capire l'entità del dono e quindi del rapporto. Un regalo tipico che gli puoi fare, ma anche stupido per capire. No, per l'amor di Dio, dell'ottimo vino, ovviamente. E beh, perché te sei una che le piace il vino, quindi è chiaro. Certo. Quindi lui poteva portarti una bottiglia, però forse ha paura di sfigurare. Diceva, porto il vino a una che si intende di vino, chissà che poi che magra faccio. Ma non è quello, poi della cioccolata, ma quella buona. Dalla Svizzera, certo, io avrei pensato alla cioccolata, onestamente. Dagli artigiani. La cioccolata piace sempre, un bel regalo. Esatto, in più gli ho preso un cappello di Borsalino che bello. Insomma, Borsalino è comunque un bel cappello. In Svizzera ci fa un figurone con tutti i suoi amici. Esatto, cioè, invece... quindi non sono stata lì a vedere 5 euro, i 30 euro, i 100 euro, ma frega niente, era perché ho visto una cosa che secondo me lui poteva piacere e glielo ho. E lui non ti ha mai fatto un regalo? Non ti rispondi. Ma nemmeno una cosa minima, niente. Ma no. Vabbè, questo oddio, se calcoliamo un ovetto Kinder. No, dai, poverina, non è possibile, un ovetto Kinder t'ha portato. Comperato al casello dell'autostrada, naturalmente. No, ho comperato al supermercato insieme. Ho detto, ti regalo l'ovetto Kinder. Dai, non è possibile. Ma nemmeno ti i bambini. Giuro. Cioè, nemmeno ti i bambini dopo i 3 anni vogliono più l'ovetto. Appunto, che poi io non mangio neanche il cioccolato. Ma era Pasqua? Ma no, era Natale. Natale regala l'ovetto. Ma... cioè, capisci? Si ricorda ai signori passeggeri che nella carrozza 8 è attivo il servizio di ristorazione. Beh, ecco. Se ti piaceva però potevi anche fregartene, cioè, vabbè, a me piace. No, io non ce la posso fare. L'hai visto con occhi diversi, sì. No, ma sono estremamente, purtroppo. Ma curava l'igiene personale, di solito le persone avide sono anche, aride sono anche quelle che si lavano poco. No, per l'amor di Dio. Pulitissimo. Estremamente... Maniacale nell'igiene. No, è giusto, nel senso che comunque attento alla sua cura personale, dalla palestra all'igiene, ai vestiti bellissimi, taglio sartoriale, eccetera, per questo. Quindi no, è uno che spendeva, non è che ha morto certo, di fame. Assolutamente. Allora forse lo sai che hai ragione, mi sale di Pink, nella folle e spietata intuizione femminile, di te non gliene fregava proprio niente. Veniva da te come andava a fare il cambio dell'olio dal meccanico. Certo. Finché dura, ma perché devo sprecarmi? C'hai ragione, hai visto giusto. A questo punto ti do ragione. Sì, hai visto giusto. E quindi ciao. E come è rimasto? È rimasto male? È rimasto male lui? Che sì, è rimasto molto male, ma anche perché ti dico la verità, non c'era dolo nelle sue non azioni. C'era veramente una totale mancanza di predisposizione al donare, dovuta probabilmente a una mancanza di educazione data dalle altre donne. Questa è l'idea che mi sono fatta, perché comunque è una persona estremamente intelligente, è una persona estremamente educata, il quale quando gli ho esplicitato in maniera molto analitica e anche se vuoi un po' ruvida e brutale, ci è rimasto male, cioè non ci è arrivato. Sì, però capisci molte volte anche il problema dell'uomo dell'adeguarsi sempre. Probabilmente è una dimensione che a lui mancava, sai. Ma è grave per quello che hanno fatto le altre donne. Vabbè, grave, tu adesso ce l'hai con le altre donne. Alla fine tu punisci in lui il fatto di aver avuto altre donne facendo così. È perché è colpa nostra, perché non siamo in grado. Vabbè, ma allora se vuoi bene a una persona, lo aiuti a uscire dalle melme del suo condizionamento. No, a 45 anni devi essere fatto e finito, se no c'ho cuore. Ma nessuno, ma non siamo manco a 90 anni fatti finiti, ma dai. Vabbè, ma io non ci voglio perdere il tempo di lui non ci ha voluto nemmeno investire più di tanto alla fine. Ma no! Ma dai, sarà per il regalino, guarda, non credo che l'amore tracolli di fronte alla mancanza del Kinder Brioche quando bussa alla tua porta, non credo. Ma dai. No, non è quello, è la mancanza di attenzione e quindi la mancanza di... Dimmi che era trascurato in generale, questo era un sintomo. No, assolutamente. Non era frettoloso, parlava, era gentile, carino. Estremamente educato, gentile, carino. Le conversazioni erano veramente belle, piacevoli. Insomma, una bestia che viene sempre con due prosciutti sotto mano sarebbe stato meglio. Assolutamente sì. Vabbè, non siete mai contenta. Un bruto, un animale puzzolente, schifoso, che di mestiere fa il norcino, ti porta sempre capocollo, salame, salsicce e prosciutto, poi viene, fa rutti, si toglie le scarpe con i piedi puzzolenti, si mette nel tuo letto, fa i suoi comodi e se ne va. Allora sarai contenta, che devo dirti? No, così così proprio brutale, no. Però ci deve essere il giusto equilibrio in tutte le cose. Sì, cioè essere la perfezione. Ancora una volta, cara Lady Pink, mi rendo conto che il principe azzurro è quello che manca, e ogni uomo che non si avvicina a questo modello, a me, è un uomo che comunque avrà sempre un difetto, sarà sempre da scartare. Evidentemente stai meglio da sola, sei più felice così, e ti preferisci sempre comunque avere una porta aperta a immaginare che debba venire questo principe azzurro. Non consideri il povero signore svizzero vestito con l'abito sartoriale, con un buon lavoro, così diciamo preciso nel venire sempre a casa tua facendosi 4 ore di automobile soltanto perché non ti portava 2 fiori asfittici comperati alla bancarella sotto casa. Ha avuto, ahimè, poverino, la sua liquidazione, e ora sarà lì solo e sconsolato, girerà per i suoi cantoni in mezzo al freddo, alla neve, al gelo, alle banche svizzere, e dirà: ah, Lady Pink, t'avessi portato un fiore, tu saresti ancora con me. Pensa, poverino. Dai, devo scendere, ti lascio, mi viene una tristezza a pensare a quest'uomo disperato. Spero che tu ci ripenserai a questa cosa. Ciao Lady Pink. Ciao. Il treno va. L'audiolettera di oggi pone un dilemma, devo dire originale, nelle categorie che spesso si ripresentano come frequenti degli argomenti amorosi, relazionali o semplicemente di gestione dei propri rapporti. Ci sono delle costanti, ma nessuna di queste costanti è semplicemente nemmeno lambita dal tema di questa lettera. Questa è una lettera importante, è una lettera che dovrebbe far riflettere, e infatti cercherò di rifletterci sopra. Ciao Gianluca, è da qualche tempo che pensavo di scriverti, e ora che ho visto che hai dato spazio anche a lettere di uomini, ti riporto anch'io la mia vicenda. Da un anno a questa parte sono single, prima ho vissuto una storia non finita benissimo e che non mi ha fatto venire voglia di riprovarci subito. Qualche tresca con donne conosciute via chat e di tanto in tanto un'amica un po' particolare. Particolare perché rientra in quelle amicizie con licenza di sesso. Non ci siamo innamorati dopo la prima volta che l'abbiamo fatto, però non abbiamo smesso di sentirci. Ci vogliamo certamente bene e si è sviluppata una certa intimità. Quando io vado in trasferta per lavoro nella sua città, se lei è libera, mi ospita e così finisce che andiamo a letto. Magari dopo aver passato una sera a bere e chiacchierare. Ok, fin qui siamo nel quadro di quella che si chiama una tromba amicizia. Ci piacciamo abbastanza per fare sesso ogni tanto, ma non è scattata mai quella scintilla che ti fa venire voglia di condividere di più. Lei ha 39 anni, separata, mi racconta tranquillamente delle sue storie, o meglio, delle sue non storie con uomini che non riescono a coinvolgerla più di tanto. E anch'io le ho sempre raccontato tutto di me. Anche le cose che non ti fanno certo fare una bella figura. Lei mi chiede spesso consigli e io mi diverto a smontarle o svelarle quei miseri trucchetti degli uomini quando sono a caccia di donne da una notte, anche se in effetti lei non ne ha poi così tanto bisogno. Ma non è questo il punto, o meglio, lo è per quanto riguarda i suoi progetti. Mi ha detto che sente di volere un figlio, ma non sa con chi farlo e avrebbe pensato a me. Io, quando me l'ha detto, pensavo che scherzasse, e invece no. La proposta è molto concreta. Lei dice che non se la sente di aspettare anni e di sperare nell'incontro magico. In questa prima parte devo dire che non trovo argomenti particolari di riflessione, se non il fatto che una donna, quando comincia a sentir trillare il cosiddetto orologio biologico, sia con marito, con fidanzato, con passante, con tromba amico come in questo caso, sente la necessità comunque di figliare. Ma è una lecita aspirazione, è la natura che lei impelle, è questo bisogno comunque di riprodursi, avendo passato tutta una vita a dover gestire il suo ciclo mensile, adesso che sta arrivando vicino al momento in cui prima o poi terminerà, sente vicino e dice: ma perché io tutto questo tempo? Sono stata ogni mese pronta a ricevere il frutto dell'amore, a dare la vita, e non l'ho mai fatto. O lo faccio adesso o non lo faccio mai più. Quindi fino a questo punto è il normale scattare dell'orologio biologico di una donna che in fondo ha scelto nel suo affettuoso amico la persona migliore per fare un figlio, perché no, con lui, piuttosto che andare a cercare, non so, nelle banche del seme un fecondatore sconosciuto. Quello almeno lo conosce, ha un buon rapporto. Qui però si articola e si crea l'originalità del dilemma che potrebbe fare addirittura a scuola. Dice di conoscermi bene, dice che si fida, ma che non vuole sposarmi né convivere. Quando le ho detto che per me non sarebbe affatto facile poi vedere mio figlio crescere lontano da me, lei ha detto che accetterebbe pure che io lo riconoscessi. Ma anche se io volessi riconoscerlo, vorrebbe comunque occuparsene lei. Le ho detto subito che la cosa mi sembra alquanto ingestibile emotivamente e anche economicamente. Non sono preparato a fare una cosa del genere. Non sono io quella persona. Lei mi ha detto di pensarci bene e io in effetti ogni tanto ci ripenso e mi dico che se mai avrò la possibilità di essere padre, vorrei diventarlo con una donna che amo. Però è anche vero che il tempo passa inesorabilmente anche per me e mi rendo conto che anch'io vorrei un figlio. Forse l'accettare da subito un legame non indissolubile con la madre dei tuoi figli avrebbe un vantaggio. Ci sarebbe piena autonomia e niente obblighi per nessuno nei confronti dell'altro, se non garantire ai figli tutto quello di cui necessitano. Ma potrebbe reggere un equilibrio così delicato? Detta esplicitamente, due genitori semplici trombamici avrebbero più possibilità di successo e durata di due genitori che si sono dichiarati illusoriamente amore eterno all'inizio della loro storia? Con il loro pragmatismo, i due trombamici non avrebbero più possibilità di durata rispetto alle altre coppie? L'affetto può dare più garanzie dell'amore. La riflessione dell'amico io la condivido. Perché no? Se a questo punto una persona decide che fare un figlio non è per lui poi un passaggio così periglioso, in fondo anche lui avrebbe nostalgia di avere un figlio, ha davanti una situazione ideale. Si trova un succedaneo di moglie con la quale è già separato. Non deve aspettare l'acme del rapporto amoroso, della relazione matrimoniale e poi separarsi e avere il problema della gestione dei figli. Può programmare in anticipo la gestione di un figlio con la persona con cui è già separato. È separato, ma con lei ha un buon rapporto fisico, che naturalmente è la prima cosa che scema nel logorio del rapporto di coppia. Essendo una tromba amica, si cercano soltanto per fare quella cosa, quindi almeno su quel piano sono perfettamente d'accordo. Trova una donna che gli propone un ventaglio di proposte, devo dire che ha una scelta estrema. Può riconoscere il figlio, quindi fare il padre a tutti gli effetti. È come avere una moglie, come essere sposati. C'è una donna con cui ha un bel rapporto, con cui va letto piacevolmente, volentieri, quindi in fondo la vede come un complemento importante della sua vita, una persona importante. Non escludo che ci sia anche un affetto, non voglio azzardare parole logorate come amore. Comunque, se sono anni che si vedono e vanno a letto insieme, probabilmente è qualcosa che assomiglia a quella sorta di sensazione che le persone che hanno un rapporto fisso fra loro vogliono chiamare amore. Potrebbe anche non riconoscere il figlio, dovrebbe fare il regalo a questa amica, continuare magari a frequentarla sporadicamente, vedere questo bambino e fare, non so, lo zio, l'amico di famiglia. Non credo che accetterà questa soluzione perché è molto più faticosa, è molto più ambigua rispetto a quella lineare, classica. Sto con una donna, frequento una donna con cui piacevolmente mi piace intrattenermi ogni volta, perché c'è un legame fisico, carnale, ma anche di sintonia, perché non credo che vadano soltanto a letto, si parleranno. Quindi, a tutti gli effetti, hanno una vita relazionale invidiabile rispetto a una vita di coppia. Fare un figlio con lei, e devo dire, è anche fortunato, perché si accollerà a lei tutti gli oneri della gestione, dell'allevamento, della crescita, da un punto di vista schifosamente egoistico, si trova nella situazione perfetta in cui si trova ogni padre di famiglia molto impegnato nel lavoro, che ha la scusante del lavoro per non fare anche la parte pratica del suo ruolo paterno. Vedrà crescere sto bambino, che probabilmente riconoscerà, che probabilmente sarà un padre ottimo, perfetto, non conoscerà il tedio perché non sarà obbligato a dormire tutte le notti con la madre, ma ci andrà soltanto quando l'estro coglierà entrambi, e quindi probabilmente è il laboratorio sperimentale di quella che potrebbe essere un esito molto più moderno di quell'antichissima e vituperata istituzione che ancora qualcuno vuole chiamare famiglia. Avete ascoltato Il treno va, conversazioni in viaggio con Gianluca Nicoletti, a cura di Fabrizio Intonti, sound designer Luigi Speciale.